Anche il mio, grazie. Allora, rieccoci qua. Sono sempre io. Allora, siamo al secondo appuntamento della giornata. Siamo qui con Edoardo Rialti e Pinke per presentare Miti e Molotov, interviste su anarchia e narrativa, edito da Contrabbandiera. E, abbiamo invitato a parlarne con noi Pinke, che è autrice della prefazione dell'edizione italiana, nonché la persona che ci ha fatto conoscere Margaret Killjoy e con la quale collaboriamo da lungo tempo. Collaboriamo alla pubblicazione di Ruggine, la rivista autoprodotta di cui magari parleremo un po' anche dopo. Edoardo Rialti, autore, traduttore, critico, giornalista. Tanto benvenuti, grazie di essere qua. Io ho lavorato alla pubblicazione di questo libro, appunto, che ho avuto modo di conoscere grazie a Ruggine, collane di Ruggine, che diversi anni fa pubblicò come autoproduzione alcune delle interviste qui raccolte da Margaret Killjoy. Margaret Killjoy è un'autrice statunitense, attivista anarchica, autrice a sua volta di romanzi e racconti fantasy, di fantascienza e non solo, fondatrice dello steampunk magazine, la cui estetica tanto condividiamo, abbiamo condiviso sulle pagine di Ruggine. Margaret Killjoy, appunto, autrice appassionata di narrativa fantasy, di letteratura, in quanto militante si ritrova a notare intorno a sé, negli ambienti dell'attivismo, della militanza statunitense, nelle fiere del libro anarchiche, si ritrova a considerare che venne prodotta e consumata tanta saggistica in questi ambienti, negli ambienti di movimento, ma tende a mancare la narrativa, che invece dovrebbe essere un po' lo strumento attraverso il quale si possono costruire, pensare immaginari alternativi. Se è vero che l'attivismo, la militanza, l'approccio critico alla realtà si pone l'obiettivo di modificare, di migliorare la realtà che viviamo, ecco, la capacità di immaginarsi un mondo diverso dovrebbe essere il primo istinto, il primo intento di chiunque si ponga questo obiettivo. Quindi, con questa considerazione, Margaret si guarda intorno e raccoglie alcuni autori, autrici di fantascienza, fantasy o comunque di narrativa, non solo scrittori ma anche fumettisti, sceneggiatori di videogiochi, illustratori, a loro volta attivisti che si definiscono anarchici, e li interroga su come si vivono il loro attivismo, il loro impegno politico, e come lo declinano con le loro opere in letteratura, e cercando di ottenere cosa, e gli domanda cosa pensano di aver ottenuto. E niente, queste interviste poi danno spunto per molte riflessioni che spaziano veramente su tanti aspetti della vita di ciascuno e della militanza di ciascuno. E per questo è stato un piacere poter lavorare a questo libro, avere l'occasione di pubblicarlo in italiano, e per poterne parlare, per poter parlare di questi spunti. Non so più come passarti la palla. Edoardo Rialti, Pinche, benvenuti, grazie di essere qua. Grazie, si sente? Domanda? Ah, grazie. Buon pomeriggio e grazie invece di avermi invitato. Io ci tengo a dire tre cose come premessa. Innanzitutto, scusatemi i fogli, ma è deformazione professionale. Io sono molto contento di parlare di questo libro qui, di parlare di questo libro per chi l'ha fatto e di parlare di che cosa questo libro affronta. Sono molto felice e onorato di essere qui alla Polveriera e al Festival, perché io, come ho sempre detto, io ricorderò per tutta la vita il dibattito sullo stato della critica in un sabato pomeriggio con 250 persone. Io non avevo mai visto succedere una cosa del genere, e tutte le volte che devo parlare di un grande, vero evento culturale penso sempre a questo. E sono molto contento di presentare questo libro, perché io, insomma, bisogna sempre stare attenti nell'utilizzare i superlativi, però io lo considero uno dei libri più belli che io abbia letto nell'ultimo anno. È un libro che ho consigliato a tutti e che considero veramente una grande vittoria che Contrabbandiera l'abbia fatto e l'abbia messo a disposizione, quindi compratelo perché è veramente molto bello. E sono molto felice per quello che questo libro affronta, adesso vorrei provare insieme a voi a ripercorrere insieme alcuni elementi, cioè il rapporto appunto tra immaginazione, narrativa, fantasia, fantascienza, fantasy e capacità di contestare lo stato attuale delle cose. Quindi è tra l'altro questo uno dei temi che in un vero e proprio ciclo di fatto nei festival di letteratura sociale abbiamo affrontato, no? Fin da quando abbiamo presentato la raccolta di tutti i mondi possibili fatta da FQ, e ci fu appunto, mi ricordo molto bene, qui qualcuno che chiese a Vincenzo Marasco qual era il rapporto fra fantasia e impegno, e Vincenzo Marasco disse: ma in fondo ogni atto immaginativo profondo è un atto sovversivo, proprio per la natura in sé della cosa. Per quello che vorrei provare a dire, vorrei partire da una citazione da una delle autrici che viene intervistata e che apre di fatto il libro, che è Ursula Le Guin, e da un libro che ovviamente è molto importante per la narrativa che si pone la questione di immaginare dei mondi anarchici, che è appunto I reietti dell'altro pianeta. Vorrei partire da questa citazione che dice: forse in questa tendenza si adombrava già la natura dell'immensa esplorazione che lui avrebbe compiuto in direzione dei margini del comprensibile. Probabilmente non si sarebbe mai avviato lungo quell'impresa pluriennale se non avesse avuto la profonda certezza che fosse possibile il ritorno, anche se lui stesso non fosse dovuto ritornare, che in realtà nella natura stessa del viaggio, come in una circumnavigazione del globo, era implicito il ritorno. Non scenderai due volte nello stesso fiume, né potrai tornare nuovamente a casa. E lui lo sapeva, anzi era questa la base della sua visione del mondo. Eppure da una simile accettazione della transitorietà, lui aveva sviluppato la sua vasta teoria, in ciò che è più mutabile, in cui ciò che è più mutabile veniva mostrato essere più pieno di eternità, e in cui la tua relazione col fiume e la relazione del fiume con te e con te stesso risulta essere insieme più complessa e più rassicurante di una mera mancanza di identità. Tu puoi davvero tornare a casa, purché tu comprenda che casa è un luogo nel quale tu non sei mai stato. E perché è importante questo? Perché Madama Ursula Le Guin, quando vinse il National Award, è noto, no? Molti ricordano il fatto che quando lei ha ricevuto una delle massime onorificenze americane per la scrittura, ha fatto quella famosa stilettata nella quale ha detto: lo prendo a nome anche di tutti i miei colleghi e le mie colleghe scrittori e scrittrici che sono stati snobbati per anni in quanto pausa non realistici. E questa è una citazione che per chi si occupa di letteratura fantasy e fantascienza è stata appunto come una sorta di redderazionem. Quello che però spesso non viene detto è che in quello stesso intervento poi Ursula Le Guin, che è qualcuno che è stato in grado con la forza della sua immaginazione, veramente anche di alcuni elementi che erano stati citati prima per Chav, di sfidare tutte le grandi questioni, cioè la questione di razza, perché il protagonista di Le Cronache di Terramare è di pelle scura, anche se viene sempre sbianchettato anche in tanti delle copertine, lei lo dice che si arrabbia sempre anche di questa cosa. Questione di genere, perché ha scritto La mano sinistra delle tenebre, che è uno dei primi libri nei quali si immagina un mondo intero nel quale si può cambiare sesso. E poi anche questioni economiche, nello stesso intervento al National Award dice il capitalismo viene considerato invincibile, ma così era anche il diritto divino dei re, no? Questo detto tra l'altro in America. È significativo che questo libro sia proprio con un'intervista a lei. Ci tengo a dire che per me questo è stato veramente una lettura che mi ha molto colpito e mi ha fatto molto pensare, perché è un libro che si interroga e si muove su due grandi poli. La differenza che c'è tra le grandi narrazioni e le narrazioni asfittiche, che continuamente ci circondano. C'è uno degli intervistati che dice una cosa molto bella, dice «Io tremo tutte le volte che una storia diventa legge», perché dice quello è l'inizio di tutta una serie di guai molto pericolosi. Io ho imparato molto da questo libro. Per la nota che vi viene costantemente suonata, è un libro che comprende interviste a nomi stranoti, cioè da Ursula Le Guin, che è, non so come dire, è la madre della letteratura fantastica del Novecento, a nomi che sono perfetti sconosciuti, alcuni che sono volutamente anonimi, altri che appunto si considerano parte di collettivi narrativi e di comunità. È interessante perché alcuni di loro sono voci totalmente inserite nel mondo culturale mainstream, cioè sono autori e autrici di bestseller da cui sono tratte delle serie Netflix, e altri che invece vivono una vita di grande marginalità anche dal punto di vista della produzione editoriale. Però è interessante che tutti, e questo io lo considero un'altra cosa che mi ha molto colpito di questo libro, non se la raccontano, cioè sono tutti profondamente consapevoli della complessità dei temi che stanno affrontando, cioè della natura del proprio impegno come narratori e narratrici, della differenza che spesso c'è tra compromessi e sacrifici, che non sono la stessa cosa, e alcuni di loro dicono sì, io ho fatto dei compromessi, ma erano dei compromessi per me a rialzo, e altri hanno detto no, io preferisco fare dei sacrifici per cui in fondo anche la mia opera non arriva in determinati ambiti, ma in questo modo mantiene una purezza che per me è assolutamente irrinunciabile. Ma alcuni esplicitamente non vogliono appartenere a comunità e a militanze esplicite. Ursula Le Guin è una che dice credo che per uno scrittore entrare in una qualunque forma di partito o di comunità sia comunque molto pericoloso, perché bisogna sempre essere eretici, bisogna sempre essere altri, e altri che invece si riconoscono e come in dei percorsi e fanno militanza attiva. La cosa importante è che tutti sono però interessati alle sfumature. Sono tutti interessati ad analizzare e a raccontare come costantemente la tendenza umana a ridurre le esperienze complesse in narrative semplicistiche, e su questo poi voglio tornare dopo meglio, e che questa è una tendenza che è costante, non soltanto del mondo che spesso viene contestato, e quindi la banalizzazione consumistica o capitalistica, ma anche all'interno delle comunità che invece cercano di contestare questo modo di essere al mondo. Ovviamente il tema del rapporto tra immaginazione, fantasia e fantascienza è appunto, non so come dire, una delle spine dorsali della narrativa fantastica. Per chi come me appunto si occupa da studioso e da narratore e da traduttore di narrativa fantastica, la grande narrativa di fantascienza ovviamente si è sempre posta il problema di quanto e come contestava il mondo che la circondava, e sono tanti i rivoluzionari che sono stati rievocati e immaginati anche dalla grande letteratura mainstream. Ovviamente c'è la fondatrice del mondo anarchico dei reietti dell'altro pianeta della Le Guin, ma per chi di voi conosce, qui parlo giocando in casa, essendo un autore che io traduco, cioè Richard K. Morgan nella sua serie di fantascienza Altered Carbon aveva immaginato questa rivoluzionaria che si chiama Quel Christ Falconer, quindi con un evidente richiamo cristico, e questa dottrina politica, il quellismo, ed è molto molto interessante, se voi avete letto i libri e poi avete visto la banalizzazione che è stata fatta dalla serie Netflix, come il portato di contestazione che era presente all'interno della narrativa di Morgan è stato ovviamente trasformato nell'ennesimo stereotipo. È interessante la definizione che viene data all'inizio del libro di anarchia, cioè chi, scegliendolo, è una citazione dalla Le Guin, accetta le responsabilità della propria scelta. E come stavo dicendo, tutti gli autori e le autrici intervistate sono contemporaneamente consapevoli delle costanti riduzioni dall'esterno che questi temi possono subire. Alan Moore, l'autore di V per Vendetta, dice io quando ho visto il film che è stato tratto appunto dalla mia opera, dice tutte le volte dico ma perché no, la sinistra liberale americana, per cercare in qualche maniera di gestire lo shock di Bush dell'11 settembre, ha dovuto banalizzare la mia storia, no, trasformandola in qualcosa di infinitamente meno aguzzo, vasto e complesso come lo era. Ma al tempo stesso anche dall'interno alcuni degli autori e delle autrici hanno fatto delle opere che hanno voluto raccontare, ad esempio, quante dinamiche di potere, quanta disparità di genere ci sia, ad esempio, nella scena punk, no? Viene detto all'interno del libro. Per quanto mi riguarda, il tema del rapporto tra immaginazione e impegno è una questione che mi riguarda molto da vicino. In realtà, come diceva Oscar Wilde, ogni critica è un'autobiografia, nel senso che io personalmente, e questa è la cosa che considero uno dei doni più importanti di questa serie di riflessioni, che sono veramente ricchissime e che permettono veramente di cogliere uno stato dell'arte molto complesso e variegato. Dico solo una cosa, ancora una volta tornando sul passato: che fantascienza e fantasia abbiano a che fare con la contestazione della realtà è talmente evidente che è vero fin dall'inizio della nascita del genere fantastico. Una delle prime volte in cui una grande opera di narrativa si pone il problema di una società anarchica è all'interno della Tempesta di Shakespeare, nel momento nel quale, che è ovviamente tutta un'opera basata sulla contestazione della società e su come è possibile immaginare un altro mondo, viene proprio immaginato da Gonzalo un mondo senza re, un mondo nel quale dove non c'è il commercio, e ovviamente lì Shakespeare sta anche irridendo la faciloneria dell'immaginario di Gonzalo, però al tempo stesso assume questo problema all'interno della riflessione e dello svolgimento dell'opera. Però tornando a quello che dicevo prima, perché per me è importante questo libro? Perché io devo dire questa cosa, cioè io devo alcune delle inversioni a U più significative della mia vita, sia personali, private che pubbliche, proprio delle opere di immaginazione. È così strano che noi si debba qualche cosa dei fantasmi, no? Cioè, no? È una delle cose più commoventi della narrativa, che noi si possa dovere alcune delle nostre scelte etiche, personali o condivise, a qualcuno che di fatto non c'è, a delle storie addirittura che possono avere a che fare con la magia, con le astronavi, quello che è. Questo libro, attraverso una serie, pone costantemente questa domanda, e a questa domanda gli autori danno varie risposte. Io ve ne elenco solo alcune che io reputo particolarmente significative e belle, fino ad arrivare a un punto che per me rimane la cosa più bella del libro, perché è anche la cosa più vasta ed è la cosa più aperta. Perché la letteratura ci aiuta in tutto questo? Innanzitutto perché la letteratura apre, a un certo punto viene detto, a nuove possibilità, e per questo abbassa le difese del lettore. Quello che te incontreresti in un saggio e già ti porresti in maniera dialettica, sono d'accordo o non sono d'accordo, quando hai davanti una storia non ci pensi. È come se ti cogliesse con le difese abbassate in questo tempo di contagi e ti permettesse semplicemente di farti coinvolgere dalla dinamica narrativa e quindi magari di farti portare dove da solo non saresti andato. E questo per me è assolutamente vero. Io ci sono delle cose che quando le avevo lette in dei saggi avevo detto sì, non sono d'accordo, avevo tutta una serie di obiezioni. Quando le ho trovate incarnate in delle dinamiche narrative mi sono trovato a dare un assenso che era già successo, e a quel punto me la dovevo vedere io, ero in grado di andare dietro a quello che io comunque avevo già sottoscritto con la carne o con il sangue, o volevo mantenermi in quello che ancora una volta pensavo intellettualmente di sottoscrivere? Si apre a nuove possibilità. L'altro punto è che è molto bella la risposta che mi ha dato da una delle autrici, dice puoi immaginare qualcosa di così bello che i lettori possono dire bello, io voglio andarci, vorrei viverlo questo posto, e dice il dire vorrei andarci, vorrei viverlo è il primo passo per rendere queste cose un po' più presenti nella vita di tutti. Un'altra risposta bellissima viene data da uno degli autori che io amo di più, che è Michael Moorcock, il grande scrittore di fantascienza e di fantasy, che come forse sapete, insomma, io da tolkieniano appassionato, però amo molto Moorcock, che invece è uno che Tolkien lo ha molto contestato e ha dato di Tolkien quella definizione crudele ma perfetta, no? In cui diceva che Il Signore degli Anelli è la Bibbia mescolata con Winnie the Pooh, no? Che è una definizione micidiale, però assolutamente perfetta. E Moorcock dice una cosa molto bella, perché dice, molti mi obiettano, dicono, ma perché ti consideri uno scrittore di contestazione, addirittura uno scrittore anarchico, quando tutti i tuoi protagonisti sono aristocratici e dei? E lui dice, perché tutti i miei libri sono dei percorsi nei quali si deve arrivare a capire che tutti dobbiamo essere aristocratici e dei di noi stessi. E questa è un'altra immagine molto bella e molto profonda. Ma l'ultima cosa che volevo dire, prima del fatto di ribadire che appunto questo è un libro molto bello, come diceva giustamente Andrea, a cui faccio i complimenti per averlo pubblicato, e a chi l'ha tradotto e curato per averlo fatto, su tantissime questioni, le dinamiche di potere, come vi dicevo, la disparità di generi, la gentrificazione, i disagi anche nel vivere in una comunità che te magari intellettualmente, ideologicamente sottoscrivi, ma nella quale stai comunque stretto o stretta rispetto alla tua solitudine, alle tue sofferenze, alle tue difficoltà emotive, la ricerca di una spiritualità non gerarchica. Ma la cosa più bella che io ho trovato all'interno di questo libro, e che sono sicuro, e che è una cosa che mi ha sicuramente messo molto in difficoltà, perché io da narratore, da scrittore, da saggista mi chiedo sempre, proprio perché io devo così tanto alla narrativa per il mio cammino personale, per le mie scelte, che cosa vuol dire andare dietro a quello che uno ha sottoscritto come vero, amabile e profondo, e combattere e amare per esso. A un certo punto viene fatta la domanda a uno degli autori, dice, ma te in fondo che cosa ti auguri dalla narrativa, dal tuo scrivere? E lui dice due cose: la liberazione della mia gente e delle storie non troppo lineari. Ecco, io credo che una delle grandi sfide, una nelle quali io mi considero totalmente dentro il corso delle cose, proprio quello che diceva Ursula Le Guin, una casa che ancora non sai qual è, che c'è, ma che al tempo stesso ti aspetta, io continuamente mi chiedo che cosa vuol dire che la mia scrittura contribuisce a un'esperienza di liberazione. Qual è la mia gente? A partire innanzitutto da quella grande casa che siamo noi stessi per noi, ma al tempo stesso questo augurio obliquo di scrivere delle storie non troppo lineari, che non ci liscino per il verso del pelo, che non ci confermino in quello che già sappiamo è una bellissima consegna. Ed è in fondo il grande dono dell'opera di Le Guin nei Reietti dell'altro pianeta, perché nei Reietti dell'altro pianeta non c'è niente, è molto bello come romanzo, proprio perché è il romanzo di un'eresia all'interno del mondo anarchico, cioè un mondo che comunque ormai si è un po' sclerotizzato in determinati assunti, si trova a condannare colui che in qualche maniera, proprio perché sembra un traditore degli assunti, è proprio colui che sta invece, è come se stesse facendo muovere un muscolo, facendoci rimettere del sangue, perché? Perché sta portando tutto quel mondo agli estremi confini di se stesso. E questa è una sfida e una costante a cui io devo tantissimo, e sono molto grato di aver letto questo libro e vi consiglio veramente di leggerlo. Grazie. Lusingatissimo, mamma mia, quanti elogi. Appoggio l'entusiasmo in pieno nel leggere questo libro, e devo dire, io personalmente Sono stata molto emozionata nell'averlo finalmente tra le mani, cioè poter avere finalmente nelle mani, tra le mani la, l'edizione italiana, perché vi racconto un po' la genesi, un po' forse il mio compito qua tra noi tre è quello di raccontare un po' la genesi di questo libro e soprattutto della sua edizione italiana. Perché un po' racconta anche di, del mondo che ci sta dietro anche alle autoproduzioni che curiamo. E, dunque, Margaret Killjoy è un'autrice, un po' l'ha già raccontato Andrea, che fa parte del, del mondo queer, steampunk, anarchico, ovviamente, statunitense, anche se ha avuto modo di girare un po' ovunque, però insomma fa base lì. Ed è una persona che, con cui io sono entrata in contatto la prima volta agli inizi di Ruggine, quindi della Ruggine, questa rivista di cui poi vi racconto un po' meglio. Diciamo che dopo i primi numeri di Ruggine, in maniera anche abbastanza casuale, siamo entrati in contatto con Margaret attraverso il, la Steampunk Magazine, che era questa rivista di steampunk, che anche lì erano gli anni più o meno di, stiamo parlando di, ora io ho sempre un po' di difficoltà a ricordarmi a collocare nel tempo le cose, però erano gli anni di Occupy Wall Street, per capirsi, un botto di anni fa. E lo Steampunk Magazine era un po' la rivista che in qualche modo era dentro la, la comunità, non posso dire che fosse la voce di Occupy Wall Street perché era un movimento estremamente variegato, però insomma era una parte attiva molto importante di quel mondo lì e di quel momento culturale lì. E non a caso, secondo me, perché se vi ricordate un po' il periodo, insomma, e anche come, come funzionavano quegli assembramenti, si direbbe adesso, che erano Occupy Wall Street, vi ricorderete che c'era una grossa parte che per l'appunto erano steampunk, quindi avrete visto magari varie suffragette con la veletta e quant'altro, cioè erano proprio, anche da un punto di vista estetico, Occupy Wall Street era insomma frastagliato da anche questo tipo di personaggi. Lo Steampunk Magazine era sì una rivista che ovviamente era molto centrata sullo steampunk, e aveva anche una, appunto, insomma, come dire, un discorso che raccontava molto bene l'estetica di questo movimento, ma poi è stato l'elemento con cui poi loro hanno di fatto litigato con tutto il mondo steampunk, che devo dire poi onestamente è stato uno dei motivi per cui poi lo steampunk di fatto non esiste quasi più. A un certo punto c'è stata una frattura molto grossa tra appunto il definire lo steampunk soltanto una corrente estetica e quindi di fatto relegare tutto a una sorta di movimento di cosplayer fondamentalmente, una sfilata abbastanza vuota. E una frattura tra chi invece, come lo Steampunk Magazine e un po' il collettivo che ci stava dietro, vedeva nello steampunk, corrente prima di tutto letteraria, lo sottolineerei, vedeva un, una possibilità di liberazione e di appunto immaginazione di altri futuri e realtà possibili. Nelle pagine dello Steampunk Magazine c'erano, andavano a braccetto sia delle pagine pratiche dove si insegnava a costruirsi le ghette, cioè o a cucirsi il corpetto, e la pagina dopo era una critica serratissima a, magari anche proprio di dibattito interno politico su quello che era il movimento di Occupy Wall Street, e la pagina dopo c'era un racconto ambientato nella Londra vittoriana dove attraverso magari un androide aperto, sventrato e ricostruito si provava a sovvertire quel tipo di società. C'era un approccio molto divertito alla tecnologia, lo steampunk nasce un po' dal quesito un po' buffo, ma molto interessante. Cosa sarebbe successo se nel momento della di svolta che è stata la rivoluzione industriale, quindi fine 800, cosa sarebbe successo se fossero state introdotte, inventate certe tecnologie come la microelettronica, l'informatica, eccetera, che, con cui adesso conviviamo e che sappiamo bene essere, insomma, molto pesanti e molto invasive, molto invadenti. E cosa sarebbe successo se questo tipo di tecnologie fossero arrivate a fine 800, in quel momento storico lì, in quella fase storica lì? Quindi un momento anche di svolta, perché lo è stato effettivamente, quando le persone avevano un rapporto con la tecnologia che era in qualche modo ancora forse artigianale, in cui ci potevano mettere le mani sopra, appropriarsene e in qualche modo anche sentirle più loro. E invece con l'avvento delle industrie sempre più la tecnologia è diventata qualcosa che non ti apparteneva, qualcosa che non potevi, su cui non potevi minimamente avere il controllo, che non potevi smontare e rimontare, e quindi anche in qualche modo l'impatto sovversivo che una tecnologia smontata e rimontata al contrario poteva avere diventava sempre più lontano. Quindi lo steampunk prende questo, muove da questa idea, ed è, capirete che di per sé è un'idea piuttosto stimolante. Ora noi, Ruggine, non solo, perché poi ho difficoltà, insomma, a parlare solo a nome di Ruggine, perché in realtà Ruggine è una rivista che nasce proprio nel mezzo di una variegata comunità che sono che vive nei posti occupati, autogestiti, che dà vita a cose come gli hack club, gli hack meeting, quindi tutta la comunità hacker italiana, e le radio autogestite come Radio Wombat, dalla quale stiamo trasmettendo. Insomma, è una rivista che in qualche modo nasce da questa variegata comunità. Chiaramente per noi questo tipo di stimolo era uno stimolo molto interessante, proprio perché rifletteva in una maniera che ci sembrava anche in qualche modo inusuale e importante riguardo alla tecnologia. Quindi abbiamo incontrato Margaret, abbiamo incontrato lo Steampunk Magazine e abbiamo scoperto di avere degli amici lontani, al di là dell'oceano, che con tutte le differenze culturali, di esperienze, perché venivamo da mondi completamente diversi, perché chiunque ha potuto minimamente osservare Occupy Wall Street sa che hanno veramente poco a che fare con i movimenti a cui siamo abituati in Europa e in Italia, nel bene e nel male. Comunque siamo diversissimi, abbiamo mille sfaccettature che ci rendono veramente diversi. Margaret stessa arrivava da un bagaglio culturale diversissimo, da esperienze diverse, eppure la cosa che ci ha colpito tantissimo è che in qualche modo dicevamo le stesse cose. Infatti abbiamo iniziato a collaborare insieme sullo Steampunk Magazine, venivano tradotti racconti di narrativa di Ruggine, e viceversa su Ruggine venivano pubblicati e tradotti racconti dello Steampunk Magazine, ma anche articoli che appunto raccontavano un po' questo dibattito interno mischiato tra la narrativa, la letteratura e la politica in qualche maniera, e è nato un po' un connubio, un'amicizia molto forte, seppur da lontano, e che ovviamente rende tutto molto difficile. A un certo punto Margaret ci dice: beh, ho scritto questo libro, stiamo parlando del 2009, ho scritto questo libro che è una raccolta di interviste, e ci racconta di quello che poi appunto è Miti e Molotov, e noi abbiamo detto: ok, bellissimo, questa cosa è bellissima, ci piace un sacco. Però non avevamo modo, perché Ruggine, una rivista, esce tuttora in maniera completamente aperiodica, come i lettori e le lettrici sanno, perché fondamentalmente esce quando riusciamo a strappare il tempo, le nostre vite, per poter fare uscire. Però è una rivista completamente autoprodotta, completamente autofinanziata, che esce a prezzo di costo e tutto quanto, e che soprattutto mette insieme anche le forze di ognuno di noi, che nessuno di noi è un professionista del settore o lavora facendosi pagare perlomeno in questo ambito, e quindi questo ha degli enormi vantaggi, e comunque una scelta che ci rivendichiamo molto, ma anche lo svantaggio che di fatto un libro così grosso non riuscivamo a tradurlo, non avevamo i soldi per tradurlo, non avevamo i soldi per farlo uscire, e quindi siamo un po' rimasti con questo rimpianto fino adesso, perché ci sembrava una cosa importante che pure non potevamo far uscire. L'unica cosa, il piccolo compromesso che abbiamo pensato di fare era tradurre degli estratti, delle piccole pagine che erano alcune interviste scelte, e le abbiamo fatte uscire, mi sembra già nel 2009, nel 2010 al massimo, ora non ricordo, sotto forma di piccoli opuscoletti che si chiamavano per l'appunto Miti e Molotov, che contenevano alcune interviste, c'era l'intervista alla Le Guin, c'era Moorcock, alla Moore, quindi i nomi un po' più... ma non solo importanti perché più noti, ma effettivamente c'erano sembrati quelli che avevano detto, alcuni tra quelli che avevano detto delle cose più importanti e più dense. Quindi per esempio l'intervista sia a Moorcock che a Lamour, secondo me sono veramente interessanti, veramente dense, e non è perché sono due nuomoni che le avevamo scelti, ma proprio perché dicevano delle cose bellissime. Ma insieme a loro c'erano anche professor Calamity, che era fra l'altro parte integrante della Steampunk Magazine, quindi insomma, che, la cui intervista secondo me va ammessa, io la metto tra le mie preferite del libro per esempio, e poi ce n'erano altri insomma, e questi piccoli librettini hanno girato negi spazi occupati, nelle distro, per esempio c'è stato un collettivo punk che si chiama Kalashnikov, un gruppo collettivo che li ha visti, se ne è innamorato e ha deciso di, in pieno spirito di Hawaii che a noi piace tantissimo, di ristamparseli e ridistribuirli e farli scaricare dal proprio sito. Lo stesso ha fatto un altro collettivo anarchico di Milano. Insomma, questa cosa ha girato come secondo noi era bello che girasse, purtroppo però era incompleta perché erano solo questi piccoli estratti. Quando poi l'anno scorso è nata Contrabbandiera, l'anno scorso, all'inizio di quest'anno insomma, è nata Contrabbandiera, abbiamo visto un po' la possibilità di, finalmente avevamo dei magnati dell'editoria, siete più o meno come la Mondadori voi, cioè proprio quelli ricchi che ci permettono di sfornare i libri, che noi poverini sì, siamo su stesso livello qui. Quindi siamo venuti da voi dicendo oddio, voi siete una casa editrice seria, non come noi, esaudite questo sogno e pubblichiamo questo libro. Quindi è nata questa cosa, è stata tradotta in maniera anche collettiva e curata, e ne è venuto fuori questo libro qua. Questa è un po' la genesi, e forse da questo capite anche quanto io sono veramente contenta che finalmente questa cosa può essere liberata nel mondo. Arrivando al nocciolo, un po', insomma, siete già entrati voi molto nel cuore del libro, però per aggiungere due o tre cose, il nesso che ci ha legato fin da subito con Margaret e che ci ha fatto capire che questo libro era veramente bello da far uscire e che ce l'ha fatto sentire vicino, era che per esempio Margaret nelle prime pagine proprio introduttive, la prima cosa che dice è che lei ha pensato di scrivere questo libro perché girando in una fiera anarchica, tra i corridoi, tra i banchetti di una fiera anarchica, libraria, si è accorta che c'era praticamente quasi soltanto saggi tra i libri e pochissima narrativa. E questo è un dato di fatto, e noi siamo cascati un po' dalle nuvole, perché effettivamente era esattamente la stessa nostra esperienza qua in Italia, qua nei nostri giri, nel nostro piccolo di Firenze o delle altre esperienze autogestite che in giro per l'Italia che frequentavamo. E Ruggine nasceva proprio da questa considerazione, ovvero dalla tristezza e un po' dall'amarezza che provavamo nel girare negli infoshop, nelle distribuzioni, nei posti bellissimi, liberati, nostri, che sentiamo casa nostra, e però nel vedere che su queste bancarelle mancavano, non solo mancavano libri di narrativa scritti da magari nomi importanti, il che voleva anche dire che magari non venivano letti, non gli si dava importanza perché magari la narrativa la si legge in casa ma non la si reputa abbastanza meritevole da essere messa in un libro, cioè in una, scusate, bancarella a una fiera anarchica. Ma non solo questo, non la scriviamo neanche noi, e questa era la cosa che ci ha rattristato di più, che ci amareggiava di più, perché ci siamo resi conto a un certo punto che noi siamo bravissimi a fare tante cose, siamo bravissimi a scrivere un sacco di analisi, a ragionare in maniera veramente approfondita a volte su temi che altrimenti vengono banalizzati, che non vengono, che magari vengono così lasciati correre, ma non scriviamo narrativa. Se ci fate caso, la poca narrativa che compare nei nostri giri, tranne alcune eccezioni che per fortuna ci sono, però sono purtroppo appunto eccezioni, la poca narrativa che compare nei nostri scaffali, almeno nei nostri scaffali collettivi, è narrativa scritta da altri, da nomoni, da classici anche volendo. Appunto, prima abbiamo citato l'Olle Guin, abbiamo citato Moorcock, Alan Moore, che sono anche tra i miei scrittori preferiti, ci metterei altri che qua dentro non ci sono, perché per esempio China Mieville è uno dei miei scrittori preferiti di sempre, non si definisce anarchico, quindi qua dentro non c'è, però è un altro che a me mi ha aperto proprio dei mondi. Quindi sicuramente, secondo me, se andiamo a indagare tra di noi, c'è un amore per la narrativa, la si legge, però non la si scrive sicuramente, o la si scrive poco. Quindi abbiamo iniziato con Ruggine, ormai appunto tanti anni fa, a cercare di stimolare i nostri giri a un po' vincere la timidezza, sia di tirare fuori dal cassetto le proprie storie, che spesso non si aveva il coraggio di buttare fuori, proprio perché le si considerava in fondo un po' meno importanti dei saggi, no? Cioè la saggistica, il libro che mi spiega una tematica importante, di insomma, attuale, fondamentale, quella è il vero libro, quella è la cosa che è degna di essere presentata, è degna di essere di stare sui nostri scaffali. La mia storiellina narrativa, dove io mi fantastico un mondo, mi immagino un mondo così fantasioso, quella ho un po' di pudore nel portarla fuori anche nei nostri giri, e soprattutto nei nostri giri. Questo, secondo me, ci deve fare molto riflettere, sia insomma, soprattutto sul come noi accogliamo anche la fantasia e la narrativa e l'immaginazione, e quanta pudicizia ci sia, quanta difficoltà anche nel mettersi tranquilli a darsi anche un po' di spazio e permettersi, darsi il lusso e il piacere di inventare. Questa cosa qua noi l'abbiamo iniziato a scrivere con Ruggia, abbiamo iniziato a far uscire questa rivista, e è stato anche bello vedere che sono arrivate tante persone che noi fra l'altro non pensavamo minimamente scrivessero, e ci siamo accorti che per l'appunto invece intorno a noi c'erano persone che scrivevano di mondi immaginari. Noi non abbiamo mai posto limiti di generi, quindi ci è arrivato dal noir al gialli, alla fantasy, alla moltissima fantascienza, eccetera. E questa è stata la prima scoperta. Fra l'altro, appunto, anche qui il ponte con Margaret e con lo Steampunk Magazine era proprio diretto, perché confrontandosi venivano fuori esattamente la stessa esperienza, quindi anche lì c'era una grossa difficoltà, anche negli Stati Uniti, anche nei loro giri c'era una grossa difficoltà appunto nel cavare fuori dalle persone l'immaginazione e il coraggio di anche aprirsi al resto del movimento. E detto ciò, poi abbiamo così siamo andati avanti, abbiamo continuato a scrivere queste storie, e ci siamo accorti anche che questo tipo di storie, in qualche modo, e questa è stata un'altra considerazione che un po' era fin dall'inizio, un po' l'abbiamo, come dire, confermata andando avanti. Queste storie, anche quando riuscivamo a scriverle, a pubblicarle, a trovare il coraggio di buttarle fuori e a leggerle agli altri, a farle leggere agli altri, quasi sempre erano delle storie distopiche, cioè che avevano molta, spesso molta attinenza col reale, quindi erano spesso storie che sì, erano fantastiche, ma di fatto raccontavano una realtà fin troppo nei dettagli. A volte era una realtà, come la conosciamo noi, esasperata nei suoi aspetti più deteriori, più pesanti, più cupi. E quindi il gioco era spesso, il gioco classico poi della distopia, cosa succederebbe se prendo la realtà brutta con i suoi problemi che sono alla luce del sole, e cosa succede se li porto agli estremi, quindi se esaspero quelle caratteristiche di potere, di sovradeterminazione l'uno sull'altro, eccetera, eccetera, cosa succede se esagero? Succede che arriviamo a dei mondi terribili, incredibili, eccetera. Ok, è tutto fighissimo, infatti, cioè, noi ci siamo nutriti anche di tutte queste distopie, siamo tutti nati e cresciuti con Ballard, con Dick, con tutto questo tipo di cupezza, anche se vogliamo. Ci faceva effetto che però non riuscissimo mai a uscire da in qualche modo questo labirinto, questo muro, come se in qualche modo ci sentissimo anche lì, va bene che siamo riusciti a far uscire le nostre storie, ma non esageriamo, queste storie devono comunque rimanere credibili, serie e tendenzialmente cupe, perché altrimenti se mi metto a raccontare un mondo possibile, magari venuto bene per una volta, magari con delle cose belle, magari che con dei rapporti, delle relazioni tra gli esseri umani e non solo gli esseri umani, magari piacevoli, e lì sei l'ingenuo, sei la persona che comunque vabbè sì, ok sì, non hai credibilità, e c'è un po' questa paura che un po' l'avevamo considerata, devo dire, fin dall'inizio, e un po' andando avanti l'abbiamo confermata, perché di fatto i racconti che ci arrivavano molto molto spesso erano tutti cupi, come se appunto ci fosse una sorta di paura nel immaginare un finale invece venuto bene. E anche di questo abbiamo trovato traccia poi in Mite e Molotov, e anche questo è stato un altro guardarsi un po' allo specchio volendo, e capire che evidentemente era un tema più grande di noi, cioè che noi pensavamo di raccontare una storiellina che di fatto riguardava il nostro stretto giro, i nostri piccoli movimenti con le nostre meschinità, le nostre paure, ci siamo resi conto che no, era una storia molto più grossa, perché era evidentemente ci accomunava con tante altre realtà. E quello che abbiamo trovato nel libro di Margaret, che effettivamente io trovo essere importantissimo e veramente esplosivo, è l'avere il coraggio finalmente di dirsi che noi dobbiamo riscrivere il nostro futuro, abbiamo anche questa responsabilità di prenderci il coraggio a quattro mani e di riscrivere le storie che vorremmo non solo leggere ma vivere. Quindi io sinceramente come dire, sono molto spaventata da dei movimenti che non sono in grado di immaginare e pronunciare anche in qualche maniera il mondo che vorrebbero. Purtroppo siamo stati bruciati dagli slogan, quelli roboanti, all'anno global, il mondo che vorremmo, eccetera, eccetera, e quindi ne abbiamo anche giustamente un po' pudore, secondo me. Però nel profondo vanno dette queste cose, vanno riscritte, vanno auspicate, bisogna in qualche modo ritornare anche a crederci, perché altrimenti cioè, alla fine della fiera, stringendo, ma che stiamo a fare? Cioè, cosa stiamo a fare qua? Se in fondo il futuro è già scritto, il futuro è già una distopia che aspetta solo di venire realizzata, in fondo la tecnologia è qualcosa che ci arriva addosso e noi possiamo solo scansarci se va bene. Se davvero pensiamo solo questo e l'orizzonte nostro è limitato a questo, in fondo il nostro agire è un po' così, è molto con le armi spuntate, non è neanche più di tanto interessante, è solo un sopravvivere. Io credo che la letteratura fantastica, soprattutto quella che viene e descrive dei mondi complessi, contraddittori, difficili, come quelli che viviamo poi noi tutti i giorni in realtà e che ci immaginiamo, cioè, questo tipo di letteratura sia qualcosa di estremamente liberatorio e che forse è anche uno dei modi in cui possiamo uscire dai confini stretti che sentiamo così opprimenti. Più o meno quello che mi viene in mente da dire su questo libro è questo, anche se chiaramente ci sarebbe un mondo di cose e apre, devo dire, ogni intervista apre un orizzonte a sé, perché l'altra cosa molto interessante a cui tu accennavi è che ogni intervista è contraddittoria, nel senso che è complessa, tutti gli scrittori e tutte le scrittrici rivelano un mondo di contraddizioni, cioè dove Ursula Le Guin, con tutta che è una dea appunto nell'Olimpo della letteratura fantastica, c'ha una reverenza nei confronti dell'anarchismo che a me mi ha fatto una tenerezza incredibile. Cioè, quando parla dell'anarchismo è di una modestia e di una appunto quasi reverenza, lei dice: no, ma io non mi posso definire anarchia, gli anarchici veri sono gli altri, gli anarchici veri sono quelli che vanno in strada, che si fanno arrestare, che rischiano la vita, io sto a casa a scrivere libri, cioè Ursula Le Guin, cioè, a cui tutti dobbiamo qualcosa, no? Eppure non, da queste pagine viene fuori come il mondo di questi scrittori sia estremamente anche, insomma, contraddittorio e anche pieno di vissuti anche a volte, insomma, non propriamente lineari, anche scontri interni, anche contraddizioni tra scrittori che magari appunto scrivono per case editrici grosse, che hanno tra virgolette sfondato e che non si vivono bene sta cosa, con tutte le difficoltà, o dall'altra parte collettivi come possiamo essere noi che vivono di autoproduzioni e che non si vivono lo stesso bene questo, perché magari si vivono anche altre contraddizioni pesanti che esistono nei loro movimenti, che si guardano intorno e dicono: ma il mondo in cui viviamo non è tutt'altro che perfetto. E tutto questo viene fuori da questo libro, e io ho apprezzato anche la schiettezza, la sincerità con cui questi scrittori si sono evidentemente sentiti anche a loro agio di potersi aprire. E questo va dato merito a Margaret, che effettivamente li ha molto lasciati liberi di potersi esprimere. Non so, vogliamo dire altre cose? Volete chiedere voi cose? Vi vengono in mente? Aggiungo solo che, a proposito di Ruggine, che è appena uscito l'ottavo numero, in cui fra l'altro è presente un racconto inedito di Margaret, numero a cui abbiamo collaborato anche come contrabbandiera. Contrabbandiera è un progetto editoriale appunto nato giusto quest'anno, e proprio dall'incontro di esperienze come quella di Margaret dall'attraversamento di spazi, luoghi liberati, di persone, di attivisti, di militanti, di esperienze che mettono appunto a dura critica la realtà in cui viviamo, e proprio con questo intento nasce questa casa editrice, questo progetto editoriale che fra l'altro deve molto naviga fra l'editoria ufficiale e l'autoproduzione, appunto da i libri con codice ISBN nelle librerie alle autoproduzioni come Ruggine, come è stato la prima edizione di Firenze No Cost, un altro titolo che abbiamo fatto uscire, e deve molto alle persone che abbiamo incontrato attraversando spazi come questo, come altri spazi occupati e liberati in città, e le numerose persone che ci hanno aiutato alla produzione, alla creazione di questo libro, che sono numerose le traduttrici che ci hanno dato una mano essenziale. E, quindi non, il merito di questo lavoro è veramente collettivo e non si esaurisce nel semplice libro, che semplice non è. E, niente, questo qua. Ci tengo inoltre a dire, questo libro è stato scritto nel 2009 da Margaret, ma una cosa che mi ha colpito molto quando l'ho letto, l'ho preso tra le mani, è l'incredibile attualità delle riflessioni che vi vengono fatte, l'incredibile attualità della narrativa, quando, della grande narrativa, cioè della narrativa quando non è scontata, compiacente, ma si pone appunto in conflitto con l'esistente e si propone di interagirvi, di avere un impatto, di modificarlo, di migliorarlo. E quindi è stato veramente un piacere, l'abbiamo fatto con grande passione e ce lo prendiamo un po' come bandiera, come questa prima, una delle prime pubblicazioni che sono uscite con a firma contrabbandiera, ecco. Ci sono domande, qualcuno vuole? Forse è pure tardi. Ah, grazie Edoardo, grazie Pinke di essere qua e del vostro lavoro, e grazie a tutti i partecipanti.